Da ciapparsi. Ah, ecco, infatti, allora la fuori. Sì. Marino, sta giù dalla cadrea, Si sarà inceppato tutto. Sì, dai, sono in ascolto. Tanto sto scendendo a lui adesso. Sto scendendo il cane. E dove stai andando? E lì, aspetta. E lui, Auduro, là è la frequenza. Guarda che lo so che non è femmini, ho qualcosa nel freddo, mi bandisco. Oh vabbè, adesso chiudo perché devo iniziare nel fuoco, là. E sto messo a fuoco, sto senza le mie gambe che devo cucinare, dai. Atta mia garoli, andavi a battatru. Babbo. Ehi, vabbè, dai, ci sentiamo allora, Mari. Ok, ciao. Guarda che sei battito in tutti a campagna, Oggi sta cucinando gamberoni per il battiglio. E fatti bene con tutto il guaio, se si buone dentro a chi su gozo, sta tranquillo con i 50 gradi che vi gioco, si cucina la raggiura. Ma il battiglio fuoco non fa, mette la gravita insieme alla roba della serra e cucina la sola, non capisco. Ah, per il baghiccio, questi 50 gradi che vi gioco. E ok, dai. Dottore, sì, non so, forse la voce di Giovanni, ciao Giovanni, ben sentito, io chiudo il vaso nel fuoco, dai, dopo faccio stare, ciao. Ok, ciao Mario, ci sentiamo.